Eccoci, bentornati e bentornate alla fuga del gatto, che è fuggito anche oggi, domenica 27 maggio. Sì. Ho dei dubbi sul tempo e sullo spazio. Sì, come al solito, time warp, però sì, domenica 27 maggio, anche oggi, puntatona. Perché chi ha ascoltato la maratona di libri che c'è stata lo scorso fine settimana, che appunto era una diretta sostanzialmente dalla Polveriera, dove c'era il Festival della Letteratura Sociale, si sarà accorto che a un certo punto di domenica abbiamo fatto delle incursioni barbare. Sì. Di musica classica. Sono gattesche, però. Sì, sì, proprio con gli artigli. E di incursioni dove cercavamo di arraffare un po' di spazio nell'etere per farci. Nell'etere no, perché purtroppo non siamo più in etere, in questo ma nell'internet. No. Ecco. Ci stiamo lavorando comunque. Sì, cercavamo di prenderci un po' di spazio nell'internet per raccontarvi qualcosa di musica classica collegato ai libri. Avevamo preso un po' questa bieca scusa per ricavarci anche noi uno spaziettino all'interno di questo festival. E quindi abbiamo detto, siccome però lì è stata un po' risicata, sì. Allora. No, sì, ora infatti, cioè, proprio questo povero gatto, cioè, niente. No. Cioè, vabbè, le perle ai porci. Sì, proprio poco, devo dire la verità. Ora, non per fare vero sempre, però quindi c'era poco tempo da dire questo, perché sì, comunque il programma era fitto. Tante i tavoli cose. Erano tanti, le discussioni, i dibattiti. Per cui diciamo che abbiamo pensato di riprendere il tema e di, perché no, visto che avevamo raccolto del materiale, di usarlo per una puntata, anzi due, perché ne abbiamo talmente tanto di materiale, anche perché... E ce ne sarebbe molto di più. Beh, infatti potete immaginare... Ma diventerà una serie questo, infatti, sì, sappiatelo. Sì, prima stagione. Perché in effetti, cioè, capirete bene che la musica classica, che in qualche modo ha a che fare con i libri, è un tema su cui veramente si potrebbe spaziare da qui all'infinito. Tra l'altro, Virgi, io non lo so se tu, io so che tu in realtà sei una grande fan, forse l'unica, non lo so, di Slick Chick. Sì, no, non è vero, non sono l'unica assolutamente, però sono pensavo la dicessi, numero no, uno. Non sono una fan, ho detto no, insomma, non sono una fan, sono una groupie ancora proprio di Slick. Esatto, Chick, e ti groupie. Volevo dire questa cosa, che comunque Slick Chick ha lanciato una palla, perché anche Slick Chick della scorsa settimana è stata dedicata ai libri, e quindi perché noi, vedi, di Radio Wombat, chiaro, come ce la cantiamo tra di noi. Esatto, ce la cantiamo, ce la suoniamo, ce l'ascoltiamo, anche perché probabilmente ce la facciamo e ce l'ascoltiamo solo noi. Però se poi invece qualcuno ci degna ed è interessato, Ne troverà giovamento e secondo me vi fa anche bene. Ma guarda, nel dolore, un po' di così, un po' di curtura. Non è come prima, quando venivamo dopo la trasmissione sull'OI, Niente. No, ora c'è meno schizofrenia, però non ci dispiace ovviamente che la trasmissione sull'OI non ci sia più, però di fatto, insomma, chiaramente ora tiranneggiamo sulla domenica, regniamo sulla domenica, come dite voi giovani, e quindi ce la cantiamo e ce la suoniamo. In questa particolare occasione, appunto, andiamo di libri, perché il collegamento tra la letteratura e la musica classica è ovviamente così inutile da spiegare, un po' perché chiaramente gli autori in musica classica si sono ispirati alle opere letterarie per secoli, e anche spesso e volentieri, soprattutto nell'opera lirica, molti libretti sono proprio tratti da romanzi, da racconti o da saghe, eccetera. Non solo scritte, a volte anche dalla tradizione orale, se si pensa addirittura a tutto il pantheon wagneriano, no? Che magari non trova proprio così la fonte, è difficile trovare la fonte, però insomma tutto i cicli wagneriani, e addirittura proprio dalla tradizione popolare tedesca, per non parlare delle fiabe russe che hanno ispirato fior fior di autori, ma non solo le opere, i balletti, insomma è chiaro che ovviamente la letteratura è stato il mezzo di comunicazione principale per secoli, prima che venisse tutto il resto, quindi è normale che la musica classica ci sia collegata. Anche perché aggiungerei che comunque sia prima, come abbiamo detto spesso in questa trasmissione, le arti cosiddette erano tutte molto più collegate, era molto certo. più difficile discernere tra, almeno nettamente, tra la letteratura, la musica, la pittura. Un po' perché anche proprio gli autori, gli artisti erano più cioè erano polivalenti, spesso appunto i romanzieri poi facevano anche i librettisti, per dire, o, sì. o a periodi i giornalisti avevano fatto anche, avevano fatto i librettisti per alcuni. E, insomma, è chiaro che i musicisti stessi magari avevano anche scritto proprio testi, magari non solo specifici sulla musica. No, ma quindi, poi voglio dire, ma ti esce una cosa come La Tempesta di Shakespeare? Vabbè, no, su Shakespeare poi è un capitolo a parte. O non lo so, è qualcosa dell'Ariosto, del Petrarca, l'anno prima. E che vuoi non musicare? Ce lo farai, così, scusa. Cioè, nel senso, ma anche contestualizzato, no? Normale. In più scopriremo, appunto scoprivatelo, che molti romanzi, magari uno non se lo ricorda, l'ha anche letti, molti romanzi, soprattutto del 700, dell'800, ma fino al 900 direi, hanno proprio delle parti, i personaggi proprio vanno al teatro e quindi chiaramente sentono l'opera, piuttosto è, quindi la citano. Quindi vi faremo proprio degli esempi in cui i personaggi dei romanzi, di romanzi molto noti anche, sono proprio portano appunto questo esempio, perché vanno al teatro fisicamente, cioè il personaggio viene fatto, anche perché il teatro è stato il luogo d'incontro poi di tutta la società per sé, insomma, per gran parte dell'Ottocento fino a metà del Novecento era proprio sarebbe lunga, insomma, ora il discorso sulla società che va al teatro, però è un luogo di scambio e di incontro, quindi è inevitabile che anche la fantasia che attinge poi dalla realtà abbia riportato questa, da Anna Karenina a Madame Bovary a mille altri esempi di scene, appunto di libri proprio tratte da questo, cioè scene di libri che si svolgono a teatro, proprio fisicamente, esatto. Cioè i personaggi vanno al teatro. E poi, e questo è il gancio per il primo brano che ci andiamo ad ascoltare, e poi c'era anche tutta quel filone di spin-off, per dirla in maniera super moderna, perché effettivamente pensiamo all'Ariosto, di cui ora andiamo a sviscerare qualcosa. L'Orlando Furioso dell'Ariosto è un poema epico talmente immenso che cioè non è che puoi fare un'opera sull'Orlando. Sì, lo puoi fare, è stato fatto, ma sì. Insomma, cioè, al suo interno ce n'è 2000 di cose che filoni, potresti, certo. Filoni che potresti prendere, e quindi si creano da quello 1000 strade che nella musica sono state ampliate e indagate in qualche maniera. Ad esempio, il primo brano che ci andiamo ad ascoltare, che tra l'altro è quello un po' più lunghetto, ma sono 10 minuti e 43, insomma, il tempo di un caffè, è quello di Handel nell'opera Ario Dante. Noi ci ascolteremo un'aria tratta da quest'opera, che è l'aria Scherza in Fida. Handel trae per ispirazione per l'Ario Dante da un episodio dell'Orlando Furioso dell'Ariosto, appunto. Non solo lui, e non solo questa volta, poi lo vedremo nella prossima puntata, indagheremo un'altra opera sempre di Handel e sempre tratta dall'Orlando Furioso e quindi dall'Ariosto. Perché? Perché effettivamente l'Orlando Furioso, e in particolare l'opera dell'Ariosto, ho detto il contrario di quello che volevo dire, cioè l'Ariosto, in particolare l'opera dell'Orlando Furioso, è un qualcosa appunto di troppo vasto per contenere un'unica narrazione, e ne sottointende milioni di altre, o perlomeno da lì scaturisce, diciamo, si anima la fantasia dei musicisti, che magari va in altre direzioni neanche troppo pensate o indagate dall'Ariosto stesso. Ario Dante, difficilissimo a dire, sì. Ario Dante è in tre atti e è stata musicata, praticamente risale tra l'agosto e l'ottobre del 1734, ed è un adattamento anonimo, non si sa bene chi l'abbia fatto, comunque Handel se ne è servito, di un libretto italiano di Antonio Salvi che si intitolava Ginevra, principessa di Scozia, ed era del 1708, quindi qualche tempo prima. E appunto, ispirato a un episodio dell'Orlando Furioso, io non so, a questo punto lo ascolterei, è bellissimo. Sì. Secondo me è la versione cantata da Hannah Hellenberg, che è una delle mie interpreti feticcio. Thank you. Oh! Eccoci, eccoci. Bene. No, voglio dire. Molto bene. Molto bene, sì. Scusate se è poco. Robetta, con che inizio, che inizio abbiamo scelto? Suave oggi, sì. Suave. Allora, andiamo avanti nella nostra scaletta. Presto, presto, presto, è tardi. È tardi. Completamente, e ora qualcosa di completamente diverso. Completamente. Come al solito, lo spirito schizofrenico ci caratterizza. Sì. Passiamo oggi poi. Oggi è ciaone. Di palo in frasca, perché andiamo a... La cavalleria rusticana di Mascagni. Eccola. Che, vedete, ma, che c'entra? C'entra perché forse non tutti sanno che, ma diversi lo sanno, che la cavalleria rusticana di Mascagni, sul libretto di Giovanni Targioni Tozzetti e Guido Menasci, era in realtà scusate, il serbellone mazzante di andare mai, tratto dalla novella omonima di Giovanni Verga. Ecco, scusate se insomma se ha nobili origini questa, questa opera. Vabbè, ora non starei a fare la sinossi di, della cavalleria rusticana, magari la facciamo una volta in soppopera, perché sì, è un po' complicata. Però ecco, in questa puntata dedicata al collegamento tra la letteratura e la musica classica, non poteva veramente mancare cavalleria rusticana, proprio perché appunto prende origine, è ispirato alla novella di Verga. Cavalleria rusticana andò in scena per la prima volta nel maggio del 1890, quindi siamo pure proprio al Teatro Costanzi di Roma, e viene spesso rappresentata insieme a un'altra opera, perché è un'opera breve, viene spesso appaiata, spesso nei teatri fanno questa cosa, mettono due opere brevi insieme, tante volte uno così si annoiasse, spesso viene appaiata a Pagliacci di Leoncavallo. E questo appunto singolare abbinamento viene proposto proprio fin dall'inizio, fin dall'esordi di Pagliacci al Metropolitan Theater di New York nel 1893, di cui poi parleremo, per questo ve l'ho detto. E venne comunque legittimata dallo stesso Mascagni, che nel 1926 al Teatro della Scala di Milano diresse proprio lui stesso, nella stessa soirée, entrambe le opere, quindi Cavalleria e Pagliacci. Questo appunto, l'opera ha appunto chiaramente presenta chiaramente delle differenze con la novella di Verga, perché il libretto è poi chiaramente adattato in modo che sia possibile rappresentarlo in forma di opera lirica, quindi non è didascalico sulla novella di Verga, però è piuttosto attinente, insomma non l'hanno proprio stravolto completamente. Quindi, per non andare troppo lunga, direi che noi di questa opera ci sentiamo l'intermezzo, che è una delle parti più note, ed è musicale, se non sbaglio. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. No, ora scusa, mi stavo distraendo perché c'erano le zanzare. Sì, le zanzare, che anche hanno i gatti comunque. Cioè, abbiamo avuto un assalto. Appunto, un'altra cosa da dire su quest'opera, legata sempre al fattore letteratura, più al fattore lingua, direi, è che, se non mi sbaglio, questa è l'unica opera insieme a Tosca, proprio l'unica opera di tutto il repertorio, almeno credo dell'opera italiana, ovviamente si parla di opera italiana, in tutta la storia dell'opera italiana, che presenta dei pezzi in dialetto di una regione, in questo caso siciliano. Sì, è l'unica proprio, e l'altra è Tosca, che ha un'area in dialetto romano. Il romanesco. Quindi, ecco, un altro aneddoto che la lega alla letteratura, alla lingua, proprio è questo, che appunto è rarissimo, un esempio di cantato in siciliano, proprio stretto. Beh, anche perché mezzo importante l'opera, perché al tempo quello facevi, andare all'opera, non è che c'avevi altre cose per sentire come parlavano i tuoi simili. Esatto, era proprio la forma di intrattenimento più nota, la più mainstream, che ora sembra buffo, però era veramente mainstream. A parte, scusa, però mi hai lanciato un assist troppo ghiotto perché io non lo colga, a parte anche l'Artusi, perché perché sentivo l'altro giorno che Paolo Poli è stato un grande lettore dell'Artusi. E fece proprio anche, sì, ha fatto lettore sulle Paolo Poli che legge le ricette. Esatto, esatto, quello intendevo. Ma perché, ora, al di là delle ricette in sé, anche perché effettivamente le libri di cucina dell'Artusi ce l'avevano tutti in casa, e quindi quella fu una delle forme, uno dei mezzi più principali per diffondere l'italiano, esatto, scritto tra le persone. Le aree che visitavo, quella che visitavo è appunto l'area in dialettale, è Olola, c'hai di latti la cammisa, canzone siciliana di Turiddu, si chiama così l'area. L'altra, quella che visitavo, è invece Io de sospiri dalla Tosca. Quindi queste sono proprio le uniche due esempi in dialetto. Va bene, comunque noi adesso ci sentiamo una cosa strumentale, quindi... E quindi questa cosa ho detto come al solito è inutile. Immaginatevela. Però ci stava. Eccola qua. Ah, che dolcezze. Vabbè ragazzi, questa l'avete sentita anche veramente, come dice, nella pubblicità dei cioccolati. Sì, anche io pensavo alla pubblicità. Questa, ragazzi, l'hanno usata veramente cani e porci. È bellissima. Dogs and Pigs. Dogs and Pigs. La fuga del gatto. Always. E comunque, come al solito, la polemica ci contraddistingue e ci anima. Per cui anche qui, polemica sempre. Mi sono persa un attimo e non mi ricordo più che cosa si è deciso di fare. Cosa viene dopo? Sì, cosa viene dopo? È mio, Guillaume. caffè. Bene, scusami, mi ero persa. E no, perché chiaramente onde, quando si va dal 1700 in su è roba mia. Sì, infatti, no, era chiaro. O colpa mia, cioè decidete voi. Che dir si voglia. Guillaume Dufay, di cui abbiamo parlato abbondantemente in una puntata dedicata agli olandesi fiamminghi. Recente, abbastanza. Eh sì, quindi insomma non dovete neanche fare troppi click per trovarla tra i podcast. E Vergine Bella che... vabbè, quando l'ho cercato su YouTube ho avuto delle difficoltà. Non mi immagino cosa non è venuto fuori. È così, con la musica all'asse è così. Composta su un testo del Petrarca. Perché, scusa. Appunto, cioè, allora... Poracci tra tutti. Cioè, di lì sera... Che fai? Allora, canzone 366, in particolare, del canzoniere di Francesco Petrarca. E tra l'altro è un componimento non a caso, ma è quello di chiusura, cioè l'ultimo componimento del canzoniere, che quindi ha un ruolo un po' importante, insomma, non è proprio una roba buttata lì. È la chiusa, quindi. È la chiusa, ed è in qualche modo è quella che dà un po' la struttura e il senso della poetica di Petrarca all'interno di tutto il canzoniere. E questa qui è una canzone di preghiera, poi tra l'altro oggettivamente, in cui il poeta chiede alla Madonna di liberarlo dall'amore terreno per Laura, la solita. Eh beh, se lì siete, cioè, lì siamo con Petrarca, non è che si esce troppo. Mortal bellezza, Madonna, di liberarlo dall'amore terreno per Laura. No, scusate, l'ho letto rigo malissimo, scusatemi. No, sì, mortal bellezza, atti e parole, manno tutta ingombrata l'alma. No, perché sennò non si capiva. E quindi niente, preghiera appunto di liberazione dall'amore terreno e di intercedere presso Dio affinché accolga il suo spirito in pace. Raccomandami al tuo figliuol, verace uomo e verace Dio, che accolga il mio spirito ultimo in pace. Ah vabbè, l'aveva buttata in caccia, cioè proprio si era arreso a quel punto. Dice vabbè, sai che tanto con Laura non c'è verso, mi raccomando, che? Già che ci siamo mettiamo le mani avanti. Dice si sta bene. Dice, sai che a sto punto. Dice là è raccomandabile, si sta bene, è un bel posto e quindi piglia. Prenoto? Pigliami. Che faccio, prenoto? Ma sì. Vabbè. Quindi questa era la canzone ultima del canzoniere di Petrarca e Guillaume Dufay ha ben pensato di utilizzarla e metterla in musica. Tra l'altro non è stato l'unico, perché in realtà in tanti hanno avuto la stessa pensata, tra cui anche nel 1594 Palestrina, Giovanni Pierluigi da Palestrina, che pubblicò una sua versione, una sua partitura, ovviamente essendo Palestrina, a 5 voci a cappella nei madrigali spirituali. Quindi insomma anche lì le ispirazioni quelle erano, insomma era la cosa del momento. Sì, certo. Ora non stiamo a ripetere come mai i collegamenti tra la cultura fiamminga e quella appunto italiana e sì. Il bacino di ispirazione, cioè l'abbiamo detto, quindi scoprivatevelo e risentitevelo, perché non è che tutte le volte possiamo ricominciare da capo. Se non studiate, a una certa. Però abbiamo spiegato appunto che non è un caso, insomma ci sono dei motivi per cui anche tutto il mondo fiammingo, appunto il mondo dei musicisti, traesse poi ispirazione un po' era molto attratto, e sì. Un po' perché ci sono proprio dei collegamenti storici, insomma. E poi quando una cosa è bella, sì, poi quelle erano proprio le opere universali anche nel momento, cioè non è che c'era troppo, quello c'era. Sì, non è che il Petrarca abbiamo scoperto noi dopo no, a posteriori, cioè noi. Anche al tempo, insomma, era apprezzatino. Già nel 600 se lo accollavano, insomma. Cioè, avevano capito che. Bene, bene, bene. Quindi Guillaume Dufay, Vergine Bella. Oh. Ecco, ecco, e qui. Ora siete un po' tutti più sacri. Allora, e qui, e quindi appunto andiamo subito, siccome siete su sacri, andiamo subito sul profano. Luciferino e sul sulfureo. Perché? E qui, ragazzi, seguitemi perché è complicata. Allora, nel mio libro preferito, perché ora lo devo dire, perché non è che non lo posso dire, L'età dell'innocenza di Edith Wharton. E vabbè, su Edith Wharton la so perdere, non apro neanche il capitolo, perché se non lo sapete mi dispiace per voi. Chi è? Il primo capitolo, l'incipit di questo libro comincia proprio al teatro. E i protagonisti, che insomma, il libro poi, insomma, non ve la racconto la storia, però diciamo, i protagonisti principali sono un triangolo amoroso, si incontrano appunto per la prima volta, diciamo, i due principali si incontrano per la prima volta proprio alla prima del Faust di Godunò nel 1870 a New York. Cioè l'autrice Edith Wharton, che era una donna di grande cultura e viveva appunto nella società newyorkese in realtà di un po' dopo il libro è scritto, diciamo, alla generazione precedente, riferendosi alla generazione precedente alla sua, però insomma lei fa proprio un ritratto della società newyorkese alto borghese spietatissima. E in questo appunto episodio, nel primo capitolo di questo libro, i protagonisti si incontrano nella prima del Faust, che avvenne veramente. Cioè lei cita proprio un episodio storico, cioè chiaramente lei lo scrive anni dopo, però sta citando un episodio avvenuto. E doppia citazione, doppio collegamento con la letteratura, perché non solo i protagonisti dell'età dell'innocenza vanno a vedere il Faust di Godunò sul libretto tratto dal Faust di Goethe. E qui, ciao, cioè, quindi doppio tuffo carpiato, doppio avvitamento, come si dice, e doppia citazione, appunto. Allora, il Faust di Goethe non ha bisogno di troppa presentazione, è un'opera ovviamente famosissima, che ha dato poi spunto a tantissime altre opere artistiche. Chiaramente non è il primo che ha scritto di Faust, Faust è un personaggio di cui molti altri autori avevano e poi scriveranno, è anche uno dei caratteri classici anche della letteratura, il Faust, quindi insomma ricorre poi in tantissime diciamo che Gounod ha fatto un po' come Dufay ha fatto con Petrarca, ecco. Sì, eppure Goethe un po', perché appunto comunque ha preso un personaggio, gli ha dato la sua lettura, ma era un personaggio che nella letteratura esisteva, se non vorrei dire una gastronomia, ma da Marlowe. Cioè, credo il primo fu Marlowe. Penso proprio di sì. Quindi, ok. Quindi dal 500 inglese. Qui appunto è interessante un po' perché appunto io così sono fissata con questo libro, ma in generale è bella proprio la resa, perché lei nel libro appunto dà delle informazioni precise proprio su chi era il soprano che lo interpretava, Christina Nielsen, che fu quella che poi portò il Faust di Godunò alla sua massima così celebrità, ed è quella che poi l'ha interpretato per tantissimi anni in tantissime versioni. Era proprio una famosa soprano, Christina Nielsen. L'ascolto che abbiamo noi è proprio l'aria della Margherita specifico, perché i protagonisti del libro vanno proprio citano questa. Io ho due o tre righe da leggere, non so se è meglio prima o dopo l'ascolto. Cioè, io però ho scaricato L'area del gioiello. L'area del gioiello, sì, okay. Mamma, scusa, è la stessa in cui lei poi... Ok, no, ho avuto un attimo di... No, si chiama così, però sì, L'area del gioiello. Ok. Scusami, si chiama L'area, perché lei ha questa Margherita e poi si attaccano, sono attaccate. Ascolto prima e lettura dopo? Come vuoi, sì. Ma forse anche adesso. Anche lettura prima. Sì. Allora, io non sono una grande lettrice, però ci posso provare. Il capitolo primo, proprio prima riga, una sera di gennaio, verso l'anno 1870, Christina Nielsen cantava nel Faust all'Accademia Musicale di New York. A quell'epoca si cominciava già a parlare della costruzione, sempre in città, ma in una zona più lontana, oltre la 49esima strada, di un nuovo teatro dell'opera, che avrebbe gareggiato con quelli delle grandi capitali europee per il suo costo e splendore. Tuttavia, il mondo elegante si accontentava ancora di riunirsi ogni inverno nei palchi rossi e d'oro un po' logori della vecchia accogliente accademia. I conservatori l'avevano cara perché, piccola e scomoda com'era, non costituiva un richiamo per la gente nuova che New York cominciava a temere, ma che continuava a sedurla. I sentimentali erano attaccati all'Accademia per i suoi ricordi storici e gli amanti della musica per la sua eccellente acustica, qualità sempre assai problematica nelle sale costruite per audizioni musicali. Era la prima volta che la Ninsol cantava quell'inverno e un pubblico che la stampa quotidiana aveva già imparato a definire eccezionalmente brillante si era dato appuntamento per venirla ad ascoltare. Arrivando a teatro per strade scivolose e piene di neve, nei coupé privati, nei vasti landò di famiglia o nelle vetture d'affitto, più modeste ma più convenienti. Sei persa? Sì, no, mi sono persa. ok. La prima donna stava cantando Mama, non mama, mama e sui petali della margherita che si sfogliava cadevano note limpide come la rugiada. Naturalmente cantava Mama e non He loves me, perché una legge inalterabile ed indiscussa del mondo musicale esigeva che i libretti tedeschi di opere francesi cantate da artisti svedesi venissero tradotti in italiano per essere capiti più facilmente da un pubblico di lingua inglese. Questo a Newland Archer pareva un fatto naturale, come tutte le altre convenzioni che regolavano la sua vita. Mama, non mama, cantava la prima donna, concludendo Mama, in uno scoppio finale d'amore trionfante, mentre portava alla labbra la margherita ormai ridotta a malpartito e alzava i grandi occhi nel volto scettico del piccolo e bruno tenore Capul, che, stretto in un giustacuore di velluto rosso e con un berretto piumato in testa, si sforzava, senza riuscirvi, di parere puro e sincero come la sua candida vittima. Bene, beh, sentiamocela allora a questo punto, visto che vi abbiamo introdotto. Thank you. con me. Già, già, e questa poi non ve l'ho detto, ma la Callas, ovviamente, se mi mettete da sola a decidere chi scegliere, vabbè, ciao, non è che gli puoi lasciare il guinzaglio a questa, io scelgo lei. E veloci, che non abbiamo tanto tempo. Allora, Verde Lot o Dolce Notte è il prossimo brano. Torniamo parecchio indietro. È un madrigale rinascimentale, il cui testo, attenzione, rullo di tamburi, è stato scritto da Niccolò Machiavelli. Mettere un punto. Che dobbiamo dire? Ed è inserito, tra l'altro, cioè non è proprio solo che l'ha scritto lui così, ma l'ha anche messo proprio come intermezzo nella Mandragola. Opera bellissima, bellissima, che se non avete letto, leggetevela subito, correte o vedetevela al teatro se vi capita. La Mandragola, composta tra il 1512 e il 1520, e in questo caso Verde Lot, che è un compositore francese dell'Île-de-France, che però passò molti anni della sua vita in Italia e in particolare a Firenze, durante il periodo dei Medici, e in realtà appunto l'ha composta lui, e viene un po' considerato Verde Lot il padre del madrigale italiano, perché nonostante fosse francese, pare che sia lui un po' quello che ha dato il là a tutto ciò, tutto questo stuolo di madrigali che poi verranno dopo. E a questo punto, quindi è colpa sua. È tutta colpa sua, rifatevela con lui. E comunque Francia, Firenze, purtroppo è così. Un nesso che c'è sempre stato. E quindi testo di Machiavelli, e anche qui il nesso, insomma, mi sembra abbastanza palese e denso, e quindi ve la faccio solo ascoltare velocemente. Thank you. Bellissimo, questo era veramente... No, perché capito, Machiavelli sapeva anche scrivere... Vabbè. Lasciamo perdere. Vabbè. Allora, ultimo ascolto di oggi, sì, con il quale vi congediamo e vi lasciamo la vostra domenica pomeriggio, dopo avervi fatto ripigliare abbastanza. Che è tutta in discesa a questo punto, perché insomma il peggio è passato. Esatto. Cioè, dopo questo. Voi pensavate che il sabato sera era la peggio, sì, cosa? Sì. No, no. Dicevamo, torniamo, quindi, torniamo al solito, andiamo qualcosa. Avanti in realtà. Andiamo avanti, ma torniamo a qualcosa che abbiamo già visto e già fatto. Ah, beh, sì, certo, perché è un classicone. Carmen, che dire, perché Carmen, l'opera comique di Georges Bizet in quattro atti o quadri che dir si voglia, è in realtà sul libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy, ma in realtà nasce dalla novella omonima di Prosper Mérimée, che era del 1845. Allora, su Mérimée, niente, ci vorrebbe una puntata solo su di lui, sulla sua scrittura e sulla sua grandezza. Bizet, appunto, i suoi librettisti traggono quest'opera di passione, gelosia e morte dalla novella, a cui ovviamente apportano delle modifiche, come si diceva, perché appunto, no, diventa un'opera, e quindi modifiche salienti, tra cui l'introduzione di personaggi di Escamillo e Michela e il carattere di Don José, che nel romanzo invece è descritto come un bandito rozzo e brutale, mentre nell'opera c'ha un altro carattere. Bizet stesso collaborò al libretto, tra l'altro, scrivendo anche le parole della celebre Abanera, quindi l'amore del Zanosio Rebel. Cioè, non sto a ridirla. Taratata, taratata. Tanto cioè, ve l'ascoltate tra un minuto. Possiamo. E quindi lui, quindi con addirittura Bizet scrisse proprio il testo, che chiaramente non c'era nel romanzo, nell'opera letteraria. Quindi, nobili natali in realtà per questa Carmen, che la cui prima rappresentazione avvenne all'Opéra Comique di Parigi il 3 marzo del 1875, quindi diverso tempo dopo dalla scrittura omonima, che è invece, come dicevo, del 1845. Che dire, su Carmen abbiamo già fatto una puntata, quindi anche lì riscoprivatevela. È una delle opere di maggior, forse anche uno che non sa proprio nemmeno cos'è la musica classica, se gli dici Carmen. L'ha sentita nella pubblicità dell'Ajax, di non so cosa, cos'era. Sì. Usata, riusata in ogni modo, ripresa da registi cinematografici, da documentaristi, ispirazione per altri romanzi. Insomma, vabbè, la figura di Carmen è una figura cardine della musica e ancora prima della letteratura. L'opera è, a mio parere, ovviamente, un po' di capo di lavoro, forse un po' ci è venuta un po' a noia, perché cioè, appunto, è una delle più famose, ce l'hanno fatta sentire in tutte le salse, quindi anche di Bizet, in realtà, a meno, scusi signora Bloody Mary, io preferisco altro, però, che dire, davanti al genio, davanti alla grandezza. E davanti... Non è colpa sua se poi è diventata mainstream. Ma porino, infatti. Poi, secondo me, appunto, io non per sempre dire sempre le stesse cose trite e ritrite, ma insomma, questa interpretazione della Callas a me mi casca la mascella. La Callas era proprio uno dei suoi cavalli di battaglia, la Carmen. Era pazzesca. Era proprio una delle sue migliori, insomma, più una di quelle che faceva di più, che fece di più anche. E noi non vogliamo esulare dalla tradizione, quindi facciamo sentire proprio L'amour est un oiseau rebelle, di appunto tratta dalla Carmen, e vabbè, aria famosa come la Banera. No, vabbè, inutile. Oh, toccava. E con questo vi salutiamo. Come tradizionalista oggi, guarda. Ovvero, ovvero. Veramente, vabbè. È la festa del grazie, sì, forse. Forse sì. Vi salutiamo con qui. Questo. Vi diamo appuntamento a domenica prossima. Vi dico i social Wombat perché ce li siamo dimenticati. Wombat.noblogs.org, ovviamente, da quale ci state probabilmente ascoltando. E la casella di posta, postawombat@insiberia.net. Non vi trattenete per i complimenti, se proprio li volete fare. Anche mazzi di fiori. Anche cioccolatini, ancora meglio, se proprio... Vabbè, bene, bene. Grazie. A presto, a domenica. Alla prossima domenica. Ciao, ciao. L'amore t'ama sola bene che dir ne peta privoise e se piano manco la pena si vi conviene de refuse e vieni che me la supriere la parle bien l'autre sainte et c'est l'autre que je préfère il n'a rien dit mais il me plaît l'amour Tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends.